Pane ci sfama, valore d'uso. Pane per pesci, valore di scambio. Pane ci sfama, valore d'uso. Pane per pesci, valore di scambio. Lo scambio rende i lavori uguali. Lo scambio rende i lavori uguali. Individuale a lavoro sociale, realtà sociale. Individuale a lavoro sociale, realtà sociale.